Impazienza, io non riesco a stare senza. Il semaforo è scattato, perché mai non è partito, non lo vede, che casino combinato. Mi consenta, qui ci vuole trasparenza. Davvero non sono arrabbiato, ma neppure intimorito, è un'usanza fare qualche rimostranza. E non ti lascerò parlare, io di sicuro non lo mando a dire. Sfoggio classe di ignoranza, santa impazienza, che te lo dico a fare. Io non perderò occasione, mi farò venire anche un mal di pancia. Santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza. Competenza ce ne vuole in abbondanza, per indovinar la fila sa, per poi chi si ritira la pensione si consegna stamattina. Emergenza, le sembra questa l'accoglienza? Presto presto faccia in fretta, è da molto qui che aspetta, io l'ho vista che ha saltato sulla a meta. E non ti lascerò parlare, io di sicuro non lo mando a dire. Sfogo rabbia e tracotanza, santa impazienza, e che te lo dico a fare. Sfrutterò quest'occasione, mi farò venire anche un mal di pancia. Santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza. Lascerò parlare, io di sicuro non lo mando a dire. Sfoggio classe di ignoranza, santa impazienza, e che te lo dico a fare. Io non perderò occasione, mi farò venire anche un mal di pancia. Santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza, santa impazienza.